Troppa roba, e mia figlia, se mi comprata, cosa ne fai? E intanto vedi, sono felice e comodo, che io sto pensando pure di costruirmi un traliccio in ferro, non molto alto, 4-5 metri, saltando tutte quante le cose diagonali, dopo fare tutto il traliccio meglio già. Ah, mamma, mi va bene un'antenna così, tu lì, tanto vuoi scire in basso. Non posso mettere molta roba sul palazzo, lo sai come sono, e poi rompono le balle. Magari quelli che ci sono adesso no, ma quelli che c'erano prima poco erano rompi balle, uia. Vabbè, a te è diverso, lo puoi mettere lo traliccio come sto pensando io sulle campagne, ma tu devo metti in alluminio che in 2-3 pezzi lo monti, capito? Vabbè. Anche è vero che tu sei in condominio, quindi non è come sono qua io. Niente, qua con la fianca mix ha preso la casa, tra parenti stesso, tra non sono morti in vicchi, si hanno diviso la casa, chi è venuto a ritardo, giustamente, mi ha fatto spostare l'antenna, e le onde qua, mia figlia non in questa camera, e ha scontato io, non sono Radio Maria, che ha smetto 2-3 milioni in vatt. E voglio 5 vatt e bummi. Comunque, se informi bene, non te la posso piazzare. Comunque, l'ho fatto contento, ma non riesco, la mando alla Rafa Q. Niente, la sono stata in 3 metri. Anzi, tiro una cosa già, esco anche meglio. E se me la sollevo è meglio ancora di più. Magari hai trovato il punto dove non c'hai copertura, nel senso che non c'hai degli ostacoli, va meglio. Tante volte vuol dire, mi basta che la sposti di pochi centimetri l'antenna e ti dà... ti arriva meglio, arrivi meglio nei posti, basta poco, basta che tu sorpassi, diciamo, quello che ti ostruisce il passaggio delle onde, e sei a posto. Infatti quando c'erano quei muratori eccetera, c'è anche l'escavatore piccolino, suo, fammi un favore, me lo fai uno scavo qua, mi ha fatto un bello scavo gratis, ovviamente mi sono fatto una specie di plinto, ho messo il tubo affogato dentro il cemento, ci ho messo se non 2 quintali e mezzo di calcestruzzo, il suo numero ne mu mai farà. È da quanti metri è? Ma quello lì è dove fini gli altri, dai, quindi non ti serviva molto lungo. Ma lì sono 6 metri di palo, non di più, lo posso allungare ancora di più. Vabbè, se è interessante che esci. Va bene, ma adesso cosa c'hai? La Mantova? No, io c'ho la... quella che c'ha Franco California, uguale. Ma insomma, tu non... mi sembra che mi avessi detto che ti dovevi ordinare un'antenna. Ma poi non l'ho ordinata più. Ma c'è anche l'arrigo che ho preso da coso. Ancora impacchettata, lampata, lampata, impacchettata, ho messo la parte bloccata, a me non mi piace questa antenna, gliel'ho comprata, 50 euro, però non l'ho messo usata, non mi piace. Oh, manca a me, ho sentito, vabbè, comunque c'era Marco, ce l'ha 9 anni, capo, tutto è come la piazza, Marco ha detto che là tutta una strada di cose, di vulcanizzante, l'ha riempita proprio tutta di vulcanizzante, bene, senza paura di spreco. È durata, è stazionaria, non è, va bene. Sì, ma io la vedo troppo debole come antenna. Quello che ho io, la Venom, mi sa si chiama, ci porta le onde, è più robusta, poi c'ha radiali corti e robusti, la corraccia se si posa in alto non li faccio, non è vetro originale. Vedo che è un'antenna che non è che sembra che vada un granché, però esce così bene, ho già, un bel. E se te l'ho consigliata io, non lo so, se non te l'avrei consigliata, va benissimo. Per il prezzo che costa, Tuni, è come l'antenna che ho io in macchina, quella che ho preso io, quella... polacca, però l'ho presa in Germania, è corta e spara forte da tutte le parti. Infatti lascio questa qua io, ho visto che va bene e più là forse me ne compro un'altra, se scorta non sa mai, comunque va bene, fermo già. E niente, lì ho fatto il mio grito, ho messo i pali telescopici, ho fatto il foro passante dalla parte a parte, entra proprio il ferro dalla parte all'altra, bullonata, io quando la devo scendere, solo con quei dadi, sfido, piano piano la scendo con la mano, leggera, e posso aggiungere il palo che voglio, però aggiungendo il palo dovrò comprarmi il cavo nuovo, questo lo farò quando comprerò 50 metri di cavo e allora lo sollevo come dico io. Beh, infatti. beh, ma Toni, non fare troppi lavori lì, perché se poi troverà un'altra casa devi toglierne tutto di nuovo, capito? È un casino. E purtroppo sì, io quello che ho affogato il tubo muore lì, faccio come ha fatto quando ero in terra, ho dovuto pigliare la moletta, tagliarla a zero e ciccia, e quindi ho fatto così. Adesso ho messo i pali delle luci, fatti di solari, c'è tutta la cosa, c'ho tutto illuminato. Oggi qua c'è trovato fuori, ne ho trovato un nuovo che è scatolato, che non ho usato. E mi dà una luce enorme, tutta la notte sino la mattina. Dirò che ha consumo zero, Enel, cioè Enel, sole. Il sole mi dà tutta questa potenza qua. Ho messo tre fari, da 100 watt e uno da 200. Ma ci sono i pannelli solari, così? Cappa. E dove li hai messi i pannelli? Allora, quello che ho fatto vicino al cancello è il più bello di tutti, perché ho preso uno scatolato, non so se da 8, 2 litri, e 2 litri scatolato da 7, entra uno dentro l'altro, due fori passanti, bullone da parte all'altra, sopra tutti ho fatto i fori, uno il pannello, un po' più in basso ho messo il faro. Si aggiunge lo spinotto alla baionetta e a posto, carica col sole e vai. Ma ce l'hanno sopra il faro? Perché ho visto dei fari che hanno proprio il pannello solare sopra il faro proprio. Io c'ho il pannello solare che è a parte, li ho messi vicino perché hanno lo spinotto a baionetta, capito? E poi devi racciare, non basta. E hai un faretto tutto a LED, grande, e più il pannello solare, sono due pizzi. Ho capito, sì. Come ne fa un buonetto a casa, le piante così, così alla macco ti va a pagare più luce. Ma io mi sto ordinato il proetrogeno, cioè 6 kW a benzina silenzioso, e voglio staccarmi proprio il contatore perché non è male piene, che 350 euro di luce, ma va a fare. Ma tu non mi hai detto che non la pagavi la luce? Me la soffri di pagare. Bene. E da che cosa lo deducono? Dalla lettura? No, me l'ha messo il contatore a parte solo per me, però se per nome suo. Ah, ecco. Che 450 euro? E cosa è attaccato, dottor? Quello scaldino che c'è in bagno da 2 kW. Purtroppo c'era freddo già. E ore e ore l'ho tenuto acceso. Perché qua, adesso però, signor padrone, casco giusto i condizionatori, qua non posso consumare le correnti io. Adesso vabbè, sta venendo il caldo, sta venendo. Ma il caldo condizionatore consuma di più. E non esisterà, se no anche Franco ha detto, te lo metto a posto, no, devi pulirlo entro. Io chiamo a te e pago a te. Riecchimi. Ehi Marco, riprendi, dai. Ho sentito parlare di bollette salate. Mamma mia, per carità, poi soldi buttati, cioè. Quella stufetta sì, sono 400 watt, ma la accende alle 7 di mattina e la spegne a mezzanotte, cioè. Poi lei sta sotto le coperte, a letto. Che cazzo la mette a fare la stufetta? Lì sono soldi proprio buttati. E l'ambiente già lo scalda, ma. Ma sono quelle alogene, cioè fanno più luce che calore già, e proprio non valgono niente quelle stufe. Quelle vanno bene quando tu sei seduto a una scrivania, a un tavolo, te le metti vicino alle gambe, è bello, ti scaldano le gambe, ma devono stare vicine a un metro, mezzo metro, e non a 2,5 metri, cioè non serve a niente così. Vabbè, contenta lei. Gianni, quelle alogene non fanno un cavolo, scaldano solo su vicino e boh. Io ho quella che ti manda proprio l'aria calda, 2 kW, e io do su c'ho a me. Eia, sì, quello ce l'abbiamo in bagno, per quando scaldiamo l'ambiente per fare il bagno. Però quelle alogene, vedi già, non fanno tutto luce e basta, e il calore è poco, cioè te devi azzicare le gambe, scappa. Stavo qui, 2000 watt, Toni, normale che consumi, oh yeah. Io ho paura anche ad attaccare la radio adesso, guarda, perché arrivano bollette allucinanti, come stanno arrivando bollette, cazzo, 230 euro di luci, Tu pensa che lo scaldino è 2 kW, se io attacco lo scaldamagno mi stacca la corrente, ma non da casa che c'è solo il differenziale, da contatore, quindi cosa devo fare? Uscire da casa mia, andare a cancello, fare 200 metri, prendo la macchina, attacco il contatore e torno indietro, e quindi faccio uno o l'altro. Eia, K, porto l'ecco, forse migliora come capibilità, K. il coso, apro lo sportellino e riattacco la corrente. È un casino, non si sa più che cosa fare, guarda. Adesso stanno dicendo tutti che con il pannello solare si risparmia, ma dice che le batterie bruciano un bel... Sono il vino di Brecker, già vedo poco di cosa. Ti credi, vai subito. Ebbene, Natalia, avete risolto? No, negativo, negativo. Ciao, Natalia. Ciao a tutti, buonasera. La televisione era? Sicuramente. Natalia si sente più la televisione che lui. È la radio e non è la televisione. Cazzo. Però, caspita, c'è una modulazione, Natalino, adesso è un bijou. Luca, ma è cambiato? Sì, sì, ne ha 5 questo. Anche questo è carino, no? Un po' più lungo è. Sono tutti carini. Che apparato è? Questo è il CRT 7900. Canali quante ne ha? Sono 10 bande da 40, 400 canali, però non ha i 12 metri. Quindi è di quelli che non piacciono a te col menu, sotto menu, eccetera, eccetera. Che io mi sono rotto le palle. Prova Natalino. Natalino. Ruia, Nara. Riprendi. Scusate, ma mi devo misurare la glicemia, devo fare un po' di cosa qua. Aspetta, ma è lui? Adesso già è regolato. Pensavo che era partito, che credo. Non c'era radio Natalia. No, per regolare lo smetto ho dovuto chiudere la microfonia, se no non ve ne andava. Anche un sospiro rileva questo microfono. Comunque Natalia, il mio è sempre disposto, i 10 metri al radio che avevi tu una volta. Sempre nuovo. E io non sto usando quello. Ce l'ho uguale? Sì, ma me l'ho preso nuovo, l'ho pagato 163 euro. Me l'ho preso nuovo perché mi si è rotto il Superstar. Secondo cosa mi danno, faccio scambio. A vendere o no, non mi interessa nessuno a me. Io ho capito. Cosa stavo dicendo? L'MB4 sto usando con il microfono. Già va bene, a voglia. Bellissima radio, va benissimo. Una roba, sì. Lo so. Deve essere che mi sono partiti il modulatore e il preamplificatore microfonico nel 3009. Adesso mi tocca cambiarli, va a fanguala. Robusto, puccia. Ma Natalia, scusa, tu non ce l'hai da più di 2 anni. Controlla se lo scontrino è ancora, se è ancora in garanzia l'apparato. E glielo mandi indietro o te lo fai aggiustare a spese loro? Dalla Spagna mi sembra che mi era arrivato. Adesso non mi ricordo dove cavolo è lo scontrino, chi c'è, chi d'altro. Posso prima aggiustarmelo e basta. Perché quando si compra gli apparati nuovi nella scatola si fa la fotocopia del scontrino, si mette dentro la scatola e si conserva la scatola. E così non devi picchiare un capo e mi era giunto lo scontrino. Io ho giocato sempre così, tutte le cose che ho comprato. Io non attacco alle istruzioni. No, è vero, è vero, anche io faccio così. Infatti, Tony, la camera mia sembra GBC, è presente GBC come entri, è così è la camera mia. Noi ce l'ho, infatti, ho preso quella friggitrice ad aria, che è bellissima, da 10 litri, grande, bella, tutta poca. Comunque, ripeto, nella scatola c'è lo scontrino, fotocopia, è messa nella casetta esterna che ho costruito. Poi c'ho la tua scatola, che non mi ricordo cos'era, tutta la scatola, tutta la... Perché io in casa scatola non le voglio venire, perché sull'armadio, l'ho tutte tolte. Sull'armadio c'ho soltanto 2 video sorveglianza con 8 telecamere, quello sì. Eia, sì, poi con questi scontrini di adesso sono con inchiostro termico. Se non fai la fotocopia dopo un anno è illeggibile, non vedi più niente. Si sbiadisce troppo in fretta, fatti subito fotocopia è riconservato nella scatola stessa. E infatti per i baracchini ho fatto così. C'ho più scatole che denti, molte di più. E io, guarda, da poco, due PlayStation 5 digitali, e miei figli, vedete, ci poi ce l'ho 45 in una. E dirò una cosa, che subito ho fatto due per il suo trigo, messo nella scatola e vai. Avanti, già. E io, beh, io le attacco alle istruzioni, dove c'è il libretto di istruzioni, l'attacco lì all'interno, di modo che tu come lo apri e all'interno lo scontrino. E a me non mi si è mai scolorito così, forse perché rimane riparato. No, no, si scolorisce, Gianni. C'ha ragione Marco Lio, perché avevo lo scontrino, non si dice più nulla. Io faccio la fotocopia, glielo pinzo lo scontrino insieme alla fotocopia, poi un domani vedo lo scontrino, non si vede nulla, la fotocopia si vede. Via. Ma sai perché lo faccio anche? Perché in caso di vendita degli apparati, cioè dimostro che l'apparato era mio, cioè pagato, nuovo, venduto magari senza scatola, senza staffa, senza microfono, sai quelle cose stracciate dalle macchine. Sì, Gianni, è valida la fotocopia, perché c'è il giorno che l'hai comprato, il timbro, tutto, soldi, eccetera, eccetera, guarda, se lo sanno anche loro, sì, ci faccio la fotocopia, dicono, infatti. Vabbè. No, vabbè, io non ne ho mai fatto, dico la verità, le fotocopie, però mi metto lì all'interno delle istruzioni, le spillo e poi chiudo il libretto e non me ne ha fatti più nulla. Vabbè, io ho la stampante qua, ho preso due crisma di fogli da a quattro, quindi ne ho mille fogli a voglia. Ogni tanto mi arriva la ricetta, mette la mia email col telefonino e me la stampo direttamente con ricetta con la stampante. Poi vado in farmacia e tiro medicina. Vabbè. Io già non sto comprando nulla adesso, non ho già abbastanza di apparecchi. Se mi prendo un HF, boh, basta. Ma io te lo compro il mio. No, troppo complicato, a me mi basta il 140. Natalino, fatto hai. Natalino sta misurando. KK, domani, per fortuna è una giornata, come dire, feriale, almeno più viva la città. Oggi sembravamo un mortuorio, una specie di campo di battaglia dopo il bombardamento. Non mi piacciono a me le domeniche, mi mettono paranoia, boh. Anche a me non mi piacciono le domeniche, giornata brutta. Oh, signori, 8 me le dici, io mollo tutto, spengo tutto, mi guardo il giornale tra poco, oggi c'è lo show di record, mi guardo quello lì. Mi devo scandare i ravi rossi che ho fatto oggi, quelli rotondi, bello, con ricotta e zafferano, ma così squisiti, ne ha giocato un pacco, da mezzo chilo, e me ne sono avanzato, adesso mi mangio il resto, me ne scaldo un po'. Va bene, dai, buon prosieguo, grazie al questione della compagnia ed è tutto, ci sentiamo alle prossime, ciao Natalino, ciao Marcolino, ciao Gianni, cuore e tango da parte mia, ciao ciao. Ciao Tony, dai, buona carica quando la fai, io ho gnocchetti da pranzo e mi mangio quelli, gnocchetti fatti col sugo e con la salsiccia affumicata, sono buonissimi. Tutto è buono. Ciao Torino, buon proseguimento di serata e ci sentiamo le prossime. Vediamo se riprende Natalino. Ciao Tony. Vito. Vito. Ciao ciao. Morsica Natalino, morsica alle palle. Mamma mia, mi hanno fatto vedere un video dove praticamente dei leoni, mi pare, stavano... delle iene stavano stracciando a morsi le palle di una specie di gnu o zebù, mi hanno stracciato tutte le palle, anche la pancia, il sedere, tutte le budella stavano scendendo, una cosa schifosa. Per carità, via. Vabbè, dai, io vi saluto Marco, dai, grazie per il questo, sono andato a portare giù il cane, che questo qui mi sta già chiamando, alle 8 in punto lui vuole andare, dai, mi devo ancora preparare, mangio un buon gagana, ma devo andare, dai, così mi faccio una passeggiatina, ciao, buona serata. Via, ciao Gianni, buona serata, buon proseguimento, buon tutto, alle prossime, vai Natri. No, Gianni, anche a te buona serata, dai. Ciao, ciao. Sono tornato, sono andato a fare la cena. Ehi, ti avevo provato a rilanciare, ma forse eri... non avevi sentito. Ehi, tutti andando, vabbè, no, tutti a mangiare, no. Gianni sta portando il cane, se si fa tardi è così. Quindi Natalino ha rotto il baracchino, hai capito? È riuscito a rompere il 3009 che è indistruttibile. Nulla. No, aspetta Marco, guardami. Se avete dato fuori il... del coso si chiama, c'è stata una modezza, ripeti scusa. No vabbè, ha detto che Natalino è riuscito a rompere il 3009 che è indistruttibile, l'ha rotto lo stesso. Sì, ma hanno detto che quelli che hanno il 3009 diventano tutti froci. Perché? Cosa è successo? Come si è rotto Natalino? Cosa c'ha? È partito l'amplificatore microfonico e il modulatore. Come vai? Così, senza... così. Così, proprio così, agitato la portante, un innesco pauroso e niente radio. Sì, infatti sembra strano anche a crederci perché il 3009, cioè il robusto, a me non è mai capitato. Sai dove capitava, Natali? Capitava, come ha detto Gianni l'altro giorno, ieri, quando era? Capitava che aveva la stazione base lì, come si chiama? Praticamente dentro c'è un 3009, no? E lì se spingevi troppo rischiavi di bruciare il modulatore. Ma lì non è che hai spinto troppo nemmeno. Hai semplicemente attaccato e premuto la portante, puff, ha fischiato, non si è più ripreso. Infatti, con 4 watt non era né tirata né niente a chi l'ha omologato lui io. E quindi non gli avevo fatto niente io. E non solo, ma il trimmer della modulazione AM era chiuso, cioè era normale di fabbrica. Ehi, non gli ho fatto nulla. Ma infatti è strano. Qua di solito si può crepare quando tu, che ne so, gli metti il trimmer a manetta. O sai quando lo fa? C'è qualcuno che toglie la resistenza limitatrice, che ti limita l'ingresso, allora lì puoi spaccare tutto con un amplificato, ma... boh, infatti è una cosa... assai strana, te l'ho detto, quello è malocchio mi. Comunque malocchio è quelli che hanno il 6009, sono tutti gay. No, il 7009, soprattutto il 7009. Aspetta, io sono già, l'ultimo giorno che sono diventi. Sì, allora sei candidato, Marco. Ti vedremo con le calzine e con i camici a spillo. Si può comare, eh? Così impari. Parla con Bulla adesso, va? Metti un brodino di babbo. Sì, e se no quelli che gli fanno l'operazione al stato nasale. Quelli tutti frutti di babbo. C'ero già. Dai, caro. Come diceva Bombolino, ha detto guarda che in futuro diventeremo tutti come Malgioglio e Platinette. E lui dice, ma non ti nanni. Sì, era proprio. Ha detto, ma non ti nanni. Guarda, ha detto, bisogna solo allargare le proprie vedute, non solo le vedute, poi diventi anche lì uomo di spettacolo, diventi ricco sfondato, soprattutto sfondato. No, a parte, vabbè, quello è, adesso io non c'ho niente con niente, però se vuoi vedere molti dello spettacolo, se non sei gay o LGBTQ, non fai più niente, non vai avanti, non diventi famoso, nulla, non fai nulla. Infatti tutti quei balli, tutti i finucchi sono, ma quello è veramente, sono tutti aghi di brigi, perché frequentano troppe donne e diventano finucchi alla fine. Sì, cioè sono talmente abituati a vedere la bellezza che ne vengono nauseati. Anch'io vorrei nausearmi però, poi vediamo se divento finocchio. Ui, per carità, la stessa volta parla di finocchi, boh, secondo me è due, è mezzo, è pure è due. Ci parla spesso e volentieri di finocchi, boh. C'ho qualche dubbio, ma comunque, a parte che può cuovare, pure il finocchio sta diventato adesso, boh. Tu pure tu lo sai? Sì. Ecco se ti sei bruciato un malacchino, eh? Ti è venuta una scossa alla canna e gli hai bruciato il finale trasmissione. Sì, devo essere visto, boh. Peccato, che 3009 è un bombo, boh, strano, è che te lo ripara. Sì, io ce l'ho il tecnico. Ah, ok. No, te quelli dell'Ove, guarda, è un bijou, no, niente da dire, questo qua ormai lo vedeva via, nuovo, nuovo, nuovo, quando l'ho comprato no, dalle foto sembrava nuovo, ma l'ho autografiato, poi già l'ho venduto il frontalino e coperchie, è nuovo, fiammante, mi manca solo la scatola e basta, il resto è nuovo. Lo sa che tu avevi buttato la scatola? Guarda, se non riesco a aggiustarlo ti do la scatola, non c'è più la scatola. No, è bello per la scatola, perché magari è bello, la scatola sua originale, capito? Cioè, quel coglione me la poteva mandare, invece me l'ha mandato in una scatola di un asciugacapelli, l'altro è ballato bene, comunque dalle foto non si vedevano le graffi, ho detto ma è nuovo almeno, sì è fiammato, c'è un graffio, ti faccio vedere i copri che tutti graffiati sono, infatti io qui li asso, devo vedere un po' cosa fare, comunque sia me li tengo, perché me li tengo, magari li carteggio e li riverniccio, se vediamo, qualcosa farò. Cos'è nel naso te l'hanno messa? Sì, nasino, sì. Da mamma. C'è troppo in realtà lì. Biblia, mamma mia. Che zia Adriano. Ma già te l'hanno fatto da addormentato, sì. Si vede anche il tubato. Come hanno fatto a me. Ma cosa ci ha detto? Per forza, infatti fa male la gola ancora. Infatti ogni tanto sono un po' di sangue. Ma se questa cosa continua vi faccio controllare, fatemi la restringere e controllatemi la gola, se è a posto. No, il medico ha tutto controllato, l'aveva toccato al collo, la bocca, no, a posto. Vai benissimo alla grande. Poi ho visto, ho letto anche i fogli di missione, per quanto riguarda la salute, tutto ok. Glicemia ok, tutti i valori perfetti, grazie a Dio sto bene, poi l'urina giallo paglierino, no? Tutto a posto, va, tutto a posto, cazzo almeno quello, cavolo. Uria va, però manco ripiri bene, cazzo, respiri pure male mi col naso così. Lo so, poi a parte che l'ha deviato anche da fastidioso, però sento bene l'odore del ciccio anche. Adesso cambi fisionomia, cazzo, diventi più bello. Io ero più bello prima, cazzo quelle sono stati magrendo così da giorno alla notte. E ti posso dire che ci mangiare diventa un poco a ripinare. Mamma mia, diventa un poco. Tu pensa che oggi ho mangiato a pranzo, mi stava dando la pasta al sugo, le farfalle. Vabbè, andava bene comunque. Formaggio, tutto quanto, poi c'era la carne di cavallo e le patate al forno. E poi mi fa, no, aspetta un attimo. L'hai già aperto, ho detto no. E mi ha dato i cannelloni. Nulla, niente gli ho fatto. Ho mangiato bene la lì. Poi ieri pollo, ieri ho mangiato pollo, come si chiama, gli spinacci, pollo spinacci, e carne mi pare, o carote, se non mi ricordo. No, guarda, posso dire che ci voglia della grande. La prima volta no, c'era questa pasta un po' schifosa, ma mi ha di fame, mi ha giuvagliata, ci voglio mangiare un piatto. Via da te che te ne batto mangiare, a me mi hanno battuto la maglietta senza mangiare nuda, a digiuno proprio. Perché era il naso. No, a lui sì, ma... cazzo, ma io non potevo mangiare, cazzo, per un andare bene, figurati se potevo mangiare. No, io ero un giorno pieno a mangiare, per quanto riguarda l'intervento dovevo stare a digiuno, ho fatto tutte le domande, tutto quanto, mi hanno fatto la pre anestesia in camera, vedi tu. E poi da lì me l'ho portato giù e lì non mi ricordo più niente, ho visto qualcuno passare, poi Natale giuro, mi sono come essere morto, capito? Non mi sono accorto di niente. Dove te l'hanno fatta? Al policlinico? No, la cambiata. Dove? Al policlinico me l'hanno fatti tutti e due a me. E a lui dove gliel'hanno? Alla Stecca Bianca, Santo Brito. Dottor Nicolas, bravissimo. Per quanto riguarda il naso, lui è 10. Molto bravo. Poi è un tipo che c'era lì ricoverato, che non era dalla stanza mia più avanti, cazzo l'ha aperto dal mento fino al giro orecchio, un tumore maligno, 6 tumori ci aveva. Oh, valaccio, mamma mia. Ma da bestia, 120 punti gli hanno messo. E adesso ne ha un altro tumore, non so, mi ricordo dove, comunque zona, forse polmoni, no, non polmoni, zona parte alta, del petto lì. Adesso adesso deve fare le visite di nuovo. Ha avuto veramente le palle quel ragazzo, ha avuto veramente le palle. Quindi vado a stare lì, alla fine chi entra lì, dopo se c'era più di uno col buco nella gola, ho dovuto dare la sigaretta. Sì, lo so. Fate impressione, Bazziani. Poi ce n'è uno, poverino, guarda, sempre allettato, oppure lo mettono la sedia a rotelle. Praticamente gli hanno levato l'osso dal piede, poi mettono l'osso della mandibola lì, guardate una lì. Allucinante, no? Cioè, tu pensi a due cosa fa di caglietti, allucinante, va. Era tutto pieno di tubi, tubicini. Io lo so, è un mestiere così, è quello lì, mi ha fatto il chirurgo. Certo. E tu pensa, ci sono donne che fanno le chirurghe, dimmi tu, mamma mia. La dottoressa è proprio una bella donna, bella, bella, ma proprio bella, se devo dire bella, una bella donna, proprio affascinante, molto, molto bella. Come si chiamava? Magari la conosco, ma chi lo è? Non lo so, non mi ricordo il nome, la tali nomi, non sono legato qua. I nomi sono proprio legato. Però non è sarda. Non è sarda? No. Perché io... C'è la di mia moglie che si chiama Gaia ed è proprio lì a San Pietro, è chirurga, che mi ha dato. Sì, molto bravo, molto professionale. Guarda, ti posso dire un'altra cosa, io ieri ero in camera da solo, perché quello che c'era come l'avevo diverso, operato è diverso l'indomani, forse era diversa l'operazione mia da solo, comunque sia. Gli infermieri che c'erano ieri notte, proprio professionali, veloci, guarda, micidiali, hanno fatto un errore. L'errore è questo, del lago che ti mettono, non per farti le medicine. Come ho messo la medicina, l'antidolorifico, perché gliel'avevo chiesto, infatti loro mi hanno detto, questo lì 11 te lo mettiamo così, ce l'hai pronta la notte, sì, tranquillo. Usciva fuori e dice, no, vabbè, comunque, ho fatto questa medicina e continuava a uscire. Cavolo, ti costava niente controllare per vedere se l'ago era dentro, infatti l'ago era praticamente quasi fuori. Allora cosa ho fatto? Poi mi sono alzato e me lo sono fatto cambiare. Lo volevo recuperare, pensa tu, allucinante. Cosa fai? Mara tu, ti cazzo. Ci so fenna beffa anche il pungicasani dai, cazzo. E qui si cucina, va, che sono cubilienti della vitamina D, me le devo pagare. No, non le danno. Casino. Dai, comunque si è trasformato tanto bene. Yes. Vita naturale durante di Ubiglia. E di Ubiglia pure usori. Ma pure la... chi si vi baita di vitamina su cubiglietti? Ma ti immagini? Sì, è che lo sempre vedo in Sarrado, gatto. Sarebbero bloccati. Lo so, Antani, casino. Cazzo, già non mai sono arrivati in Sicilia. Un casino, io per me, la prima volta sei stato ricoverato e hai fatto un intervento. C'è sempre la prima volta. Io in giro di due mesi ne ho già fatto due interventi. Fatti un conto. Io tre. Tre. Io ho fatto prima la colicisti e poi l'ernia che mi era uscita sedendomi in macchina con un amico che mi stava accompagnando all'ospedale. Mi mesi da ernia, cazzo, che alla giubilia da Lona, ma mi sono dovuto operare per forza. Alla fine me ne usciva subito e non riuscivo a tenere. C'avevo il cinturino per tenerla dentro. Anche il lavoro. Me la rientravo io, mi. Tu che sei meglio, dai. Sì, no, per confronto. Tu siamo non mi reggio in piedi, c'è Manzano, eppure sono sceso a Platamona a pigliare un po' d'aria. Sorry, non venire e mi sono cudurato subito. Pure che Bruno non ci poteva venire da solo a me a stare lì, mi si rompevano le scatole. Se c'era stato il sole mi sarei trattenuto un po', ma giù i tussi è giusto. Aio io a Sassa ridorla. Certo. Infatti il sole c'era, però poi è sparito. Vabbè, comunque, speriamo che domani va tutto bene. Le 9:30 dovrei essere lì, come 10, non so, mi ricordo. E poi devo fare questa cura, prendere queste medicine, casino qua. Adesso vado di, come si dice, di postarmelo bene, nel foglio, così. Lo chiede a Maria Grazia, all'assistente che viene a lavare a mamma. La faccio impostare bene, così capisco bene la situazione, perché così, visto nel foglio, non è semplice da capire. Io ho capito. Forza Italia, l'obiettivo è quello di aumentare la possibilità per i giovani. Io sono cubigliato in un casotto di medicina, mamma mia, non mi c'è banca più che ha già avuto il suo cubo di mente. Perché? Lo so, Marco, non ci sei più. Sì, ero un po' bioccato. No, prima ho detto, forse abbiamo parlato assieme, io 3 volte ho operato e tutte e 3 in anestesia generale. No, io una volta solo in anestesia generale, l'ernia me l'hanno fatta da sveglio. No, guarda, io preferisco dormire, perché per esempio mio cugino da sveglio aveva fatto l'operazione di varicocele e nonostante l'anestesia locale ha detto che gli ha fatto male, a qualcosa l'ha sentita. Ma io non ho sentito niente, sentivo sul rimani che si erano in tren, dirà la roba che si doveva entrare e boh. E non ho sentito proprio nulla, né il taglio, nulla, non ho sentito nulla. Insomma, da 3 volte. Dovuto fare perché era necessario, dai. Sì, beh, e tu non fallo. A me ma te si mandi tu. Fatti la vai il più presto possibile. O se ti veniamo a attacco di bancati ti avviboni di bene, ma di tu mesia. Hai un preso. Sì, sì, mi questo. Ne abbiamo parlato proprio ieri, oggi. Luca per esempio soffre i colicisti lo stesso, no? E quando quella comincia a infiammarsi, a dare problemi per i calcoli, rischia grosso il pancreas, ecco perché è una cosa da affrontare anche quella, tanto ormai la fanno in laparotomia, non aprono tutto come prima. Luca, riprendi. Adesso già sono da un po' che ci soffro, però vabbè, intanto mi viene. E a me dovrei avere anche senza, come si dice, vabbè, problemi al colon. Sì, c'è colon irritabile, a seconda quello che mangio mi viene il dolore. Adesso finisco questa cura, vado dal medico e glielo dico. E sicuramente dovrò fare la coloscopia. La va già prenotata, prenotata. Aveva fatto l'impegnativa per farla. Sì, la dottor Meloni, quella lì, che fanno da sotto e da sopra quelli. Vabbè, in realtà lì, tutto risolto. Io lo so, li portavo io i pazienti lì. Cazzo, alle 8 quello lì puntuale come la morte mi chiamava, cazzo, devo portarli i pazienti, cazzo. E gli infermieri in chi l'accusa che erano invalidi tutti. Cazzo, ve lo dovevo punire io un paziente a posto. Quando diceva il dottore era pronto un paziente, rivasia il travaglio. Rivasia la gastroscopia oppure la colonoscopia gli faccio. Cazzo. Il più bastardo era il dottor esattamente cazzo di Giama. Il dottor Meloni era bravo, il più giovane era amaro, ma era giusto, cazzo, se mi cavava la cosa, cazzo, cazzo, mi affittiva un cazzo, tanto il dolore non l'aveva Edu. La strazzatura. Casino, comunque anche il naso mi faceva male quando l'ho toccato, se lo facevo ben male, prima di operarmi dico. Adesso c'ho questi tamponi, c'ho un naso gigantesco. Questo vado la foto, Marco, aspetta. Dottor Cugia si chiama, quello cattivo. Me lo ricordo ancora, cazzo. Un massaggio che non finiva più. Mamma mia, per carità. Quella è più brutta però da fare. Più brutta, no, mi dispiace, no, se posso evitare. Cazzo, il dottor Cugia era un bastardo, proprio, dottor Meloni con tutte le cure, tranquillo. Dico, si incazzava subito quando vedeva che il paziente non collaborava, allora cazzo si incazzava e ne va via tutti i curori qua. fatto la foto, guarda, guarda qua ce l'ho. Lo sto aprendo, eia. Vedo, vedo. E tu rivedete come l'ho ridotto io. Poi queste piastrine, plastifix, una cosa del genere, lunga roba di 10 o 12 cm, ti proprio fino in fondo. E poi avevo anche la sutura nel divisorio tra una narice e l'altra, tutta suturata con quel filo nero grosso. E in più, vabbè, quelli me li hanno tolti subito, in ospedale avevo dei tamponi lunghi mezzo metro. Come li toglievano, di vedere quanto si dilatavano, diventavano, sembrava pezzi di gomma più ma lunghi, è una cosa allucinante. A che razza lì l'ho mandato, quanto la razza lì? Questi sono gradi lo stesso. Marco, a me hanno operato anche i turbinati, Cioè i turbinati sono stati ritoccati con la fresa. Ah, mamma mia. Immagina, ti immagini farla da sveglio, per carità, no, non esiste, non credo che sia umanamente possibile resistere. Da sveglio, se ce l'ho pensato a corto di una virgola, nulla, zero. La gola già mi faceva male, poco a poco mi pizzicava, però poi mi sentivo proprio dolore forte. Infatti poi ho chiesto, ma mi avete tubato? Sì. Mi sono accorto di nulla, giuro, nulla, zero. Ma è normale, tutti lo dicono. Non rifarei, Cioè, il dolore, vabbè, il dolore è quello che è. Adesso mi ho preso l'antibiotico, tra un po' prendo l'antidolorifico. Ancora non c'è un dolore forte, ma adesso adesso vediamo, prima che mi addormenti, se riesco a dormire. Così ero io, purtroppo all'inizio bisogna dormire un po' a bocca aperta, ti si seccherà un bella bocca. Infatti ho resistito alcuni giorni, poi non resistevo più e sono andato dal medico che mi ha tolto questi cosi in plastica, questi plastifix, stavo morendo, guarda, è una cosa terribile, e mi ha tolto anche la sutura. Ma tu ce l'hai tolto sempre, no? Come? Ce l'hai messo apposta adesso? Sì, prima diciamo era molto più storto anche, però l'operazione mia era quella del tumore all'ipofisi, no? Quindi loro sono entrati dal naso, sono andati in fondo, hanno bucato l'osso sfenoide e sono entrati dentro la scatola cranica dove c'è il cervello praticamente. Certo, c'è un intervento delicato. Sì, comunque ripeto, come ti ho detto prima, è turbinato, infatti nessuno, a parte degli occhi fa un bel male. Però aspetto per l'antidolorifico perché me l'hanno fatto, ma non me lo ricordo. Vabbè, ho preso anche la pastiglia, guarda che l'ho presa, non me lo ricordo. Forse verso pranzo, boh. E vabbè, fai anche alle 9 così, massimo 10, mi prendo Lucchi, c'è un Lucchi provvisoriamente, dice che quella non va bene, ci vuole la tachipirina. Non va bene, la tachipirina non ti basi un cazzo. Non ti basi, Brucchi. Figlia di Rucchi, a Roma qualche cosa ti basta. Si va via un Ibuprofen e la meglio, barro di dolori. Hai detto il Brufen? Allora, la tachipirina che l'ha detto all'ospedale che non ti fa sanguinare, invece lo chi sì. Ah, se c'è sanguinamento. Hai detto qualcosa, Marco? Oh, Natalino, cosa ha nominato il Brufen? Di dolore. Sì, mamma usa quello, Brufen 600. C'è anche 800, ma 800 è a lento rilascio, quello va bene se devi stare molto a camminare fuori casa, no? Se no usa il 600. Non ho capito, io non ne posso prendere purtroppo perché prendo la cardiaspirina, capito? Solo da chipirina può somigliare, basta. Stanno ricevendo. Questo mi diceva un casino, però vi posso garantire che ce l'avevo messi male lì con l'ospedale. Tu pensa, una ragazza di colore, mi sa 34 anni, una bella ragazza anche, bella, proprio bella, è arrivata lì, quasi morta era, c'era il collo gonfio, non so se era un tumore, sicuramente sì, gli aveva fatto il buco nella gola. Mamma mia. Quella è roba delicata. O quell'altro che hai detto prima, che aveva la mascella, non so, tutto tumore, poi ha i polmoni pure, per carità. e lì tenti di fare quello che puoi fare, l'impossibile poi. Però con una volta è un certo limite che si diffonde. No, una volta che metta tassa si butti tu. Non ce la fai. È come, ti faccio un esempio, non è uguale, però come se tu butti una malata di pallini e cerchi di recuperare una discesa. Via. Bene. Bene, ce l'abbiamo fatto, 8:20, quasi, no, nemmeno. Bene, vabbè, domani è un altro giorno. E tu Marco, quanti apparecchi ti sono rimasti adesso? Io ne ho due, il mobico l'ho venduto. Beh, bene o male sempre quelli, perché io non ho venduto nulla. E adesso chi riesce a contare? Boh. Allora, quelli con le bande laterali sono... che hanno tutto, anche la SSB, sono allora il Intel 5005, il 7009 che sarebbe questo, il 9009, poi la Linco DX10, il President McKinley, sempre con le bande laterali sto dicendo, aspetta, quale c'era anche? Non mi viene, non lo ricordo. Ah, 2-3009, quelli sono con le bande laterali, poi tutti gli altri sono MFM e sono, quanti sono? 1, 2, 3, non riesco a contarli tutti, non so neanche dove li ho sparsi. Vabbè, dai, con la fiesta tutta Radio Europa. Sì, diciamo recenti, dai, non roba antica. Io quelle cose vecchie le avevo date a Pomponio, gli avevo dato un FM500S che vabbè, non, quello non lo considero nemmeno. Poi gli avevo dato un Viking 2, che era 160 canali AM/FM, e l'ha avuto anche Paoletto, credo, uguale. Poi gli avevo dato il Connex 4000 Echo, gliel'avevo dato funzionante. Ho dato un po' di roba vecchia, tanto non preferivo roba nuova, poi finché durano mi... aspetta però, quelli con AM/FM sono 1, 2, 3, poi c'è quell'altro del microfono Antasti, 4, più quello senza smittare sono 5, e fai 5 più... Cioè, c'ho più apparecchi che denti. Sì, cazzo. No, io me ne bastano due, c'ho il typhoon conservato, io lo trovo a 3-8, ma... però 3009, non lo cambiare con nessuno a radio. È bello, funziona bene, va, proprio bello. Perfetto. E io. Poi vabbè, uno l'avevo dato, uno piccolo, quel Polmar l'avevo dato, Nathalie. Il famoso Polmar come quello che hai tu, quello l'avevo dato, perché non era troppo ai minimi termini, dai, non manco utilizzarlo, manco accenderlo. Poi vabbè, mi era rimasto il Maxcom 7, col portatile dell'86, che ancora funzionicchia, dai, non è perfetto ma funziona. Però poi De Luca devi contare tutti i portatili PMR Baobao, quelli sono ammazzi, compresi quelli omologati piccoli, no? Sì, lo so. No, però il 3009 mi piace un sacco, Marco, ma troppo bello, bello apparecchio. Yes. Vabbè, peccato quello di Lattarino, se devo mettere a posto, bene. No, chissà perché si è rotto così. Che cosa ne so qui? Cazzo, l'avevo pigliato un'ora, l'avevo pigliato. Ma? Cacchio, l'avevo pigliato lavora. Se non lo compare ginocchio, no. Diciamo che gli italiani che hanno scelto... Garanzia non ne hanno quelli. Oh, per un attimo non sei uscito, per un attimo ho detto ma gli si sta bruciando anche quello, mi dice che mi tocco i cosiddetti, non che gioielli di famiglia, gli Zebedei. Era attento per un po' il 3009, ha fatto tempo arrivare questo e a rompersi i dughe. te l'ho detto, ti hanno pinacciato, come hai preso il nuovo, te l'ho mandato qualche maledizione. E la macumba mi hanno fatto. Facciamo un pellegrinaggio a Lourdes tutti, chissà che mi faccia la grazia a me. Davvero? Solo che a me mi dovete portare con la sedia a rotelle. Ma vi conviene? Ce l'abbiamo. Aiuto, tutti a Lourdes. Mi, qua ce l'abbiamo. Pensa, praticamente questa sedia a rotelle è nuova, non è mai stata usata. L'avevamo presa per portare mamma a fare analisi più impegnative. Poi invece ha preso un girello, un deambulatore migliore con quattro ruote e bene o male se la cava, però volendo disponibile c'è anche quella. Io l'ho restituita, ce l'avevo per mamma, l'ho restituita a San Camillo, il letto avevo, tutto, e ho restituito tutto quanto, quando è morta mamma l'ho dovuto restituire, capito? Poi conta Natalia che certe cose, vabbè, le stampelle, le grucce, quelle lì, ma avevamo anche roba medica, perché zio Salvatore era medico, e abbiamo roba vintage, la padella, il pappagallo, vecchio dell'anno 3, il vasino, che schifo, una volta si teneva il vasino sotto il letto, tipo nonno, faceva la pipì, di notte si teneva il vasino sotto il letto, ma poi saliva un fiaco di biscio da lì, ma non ti nandi, è meglio andare in bagno. Sì, fanno pisassini, poveraccio, chissà come tira. No, no, già stava bene, è che si usava, boh, una volta dice che si usava. No, io mi dispiace, ma l'odore poi che ti arriva, ti sale, capito? Soprattutto quando c'è caldo in estate. No, molto meglio andare in bagno, qui la pozzo. Se uno può andare, sì, è logico che deve andare in bagno, ma se uno non si può pisare, dallo ritu. Eia, no, ma per dire, nonno era abile, nonno praticamente fino all'ultimo giorno di vita era abile, era, pensa quando è morto era dal notaio per fare una vendita e gli piglia questo infarto fulminante, ha fatto in tempo a dire, Franco mi sento malissimo, boh, è rimasto occhi aperti, fulminato, pensa che in un minuto, due minuti erano all'ospedale perché erano in via Manno, in un attimo erano pronto soccorso, nulla a fare, troppo fulminante. Sì, Andegustino si salvino. Però vedi, aveva 81 anni, la vita se l'è goduta, ha fatto il marinaio, ha fatto due guerre mondiali, ha fatto la seconda guerra mondiale e la terza che poi era il matrimonio con nonna. Figurati. Continuamente. Perché fidati, io che l'ho visto, col matrimonio è stata una terza guerra mondiale per lui, Sì, secondo che ha femmina Giappi, ero guido. Turismo e lavoro. Poi le cose che mi raccontava, che ha visto, mamma mia, per carità, se l'avessero beccato a Roma, a Monte Mario, scappando dai tedeschi perché lui era partigiano, e gli sparavano, scappato dai tetti dei paesi, se l'avessero preso guai. Anzi, forse è meglio non farsi prendere vivo in quei casi. Te credo. Anche a mio padre hanno sparato i tedeschi. Fanno tutta una mitragliata. Meno male non l'hanno beccato. Perché andavano a rubargli il pane. I tedeschi andavano ai panifici a caricare il pane per le truppe del Vessere. E lì ci andavano i gatti, mentre si distraevano, poco a poco gli rubavano il pane e fuggivano. A chi erano avanti, i sedenti, paurosa. Sì, confermo. Allora, abbiamo anche una foto del 43, del 43 dove nonno per qualche motivo aveva fatto un documento, no? Ed era tutto magro, smunto, tutto, come che si dice, barri su ciaddu, magro. E tu, non pude ingrassarsi a mangiano vendita. Sì, ha detto che certe volte quando trovavi le bucce delle patate e le bucce delle fave, se le bollivano ed era una festa, quando le trovavi? Sì, dariva anche di lumacato, i drunchi di ragaura li inevuravano. E pensa che lui invece quando prima che Mussolini entrasse in guerra, il casino poi è stato quello, soprattutto, ci ha rovinati. Il nonno guidava il motoscafo reale. Ti ricordi, te l'avevo fatto vedere quelle foto dove si vede il re che era un bel basso e poi c'era quell'altro, il principe Umberto mi pare, era alto e un po' ricchiancello, lo sai. Sì, ho capito. Con Sciaboletta era, con re Umberto. Vabbè, lei era Vittorio Emanuele, no? L'altro principe Umberto, e dice che quando era sepolto sulle navi, insomma, dice a un'ora un po' tarda invitava o tentava di invitare qualche marinaio nella sua cabina, cose viste e dette da nonno. Boh, e lì dovevi andare con le mutande di ferro, mi. Umberto lo chiamavano Ciaboletta perché era basso, capito? Ma dico, quello un po' con tendenze strane, non era il basso, era quello alto. Il principe Umberto, dai. Oh, se non ho sbagliato nome. A Vittorio Emanuele hai visto sicuramente. Quello alto era Vittorio Emanuele, re Umberto era quello basso. E capo, aspetta che magari sto prendendo delle cantonate. Dovrei cercare le foto e controllare, dai. Era re Umberto quello basso, lo chiamavano Ciaboletta per quello, perché c'aveva la ciabola su misura, la ciabola normale non la poteva usare lui che era troppo lunga. Vabbè, comunque dove volevo arrivare? Allora, il Ricchione non era quello basso, era quello alto, più giovane. Sarà stato Vittorio Emanuele. In quelle foto c'erano gli slogan appesi ai muri, proprio gli stendardi, no, non verticali, non orizzontali, però grandi, no, di tela. Credere, obbedire e combattere. Lì non si scazzavano. Altro che droghini di adesso. Ciucciu, lì ti mettevano a correre. Credo che non esisteva la droga a quei tempi. Magari per i personaggi potenti di spicco magari c'erano droghe più raffinate, ma roba da elite, capito? Roba da intenditori, magari l'oppio fra i ricchi sfondati o capi di Stato già girava. Cioè loro potevano disporre come volevano di... così avevano capacità, come dire, di vita e di morte, capito? Sui sudditi. Sì. Vabbè, non è come il Medioevo. Il Medioevo era allucinante. Nel Medioevo proprio diceva, tu mi sei antipatico, ammazzatelo, e loro ti ammazzavano. E vuoi dire di no al re? Vabbè. Luca, riprendi. Sto mandando dei messaggi vocali, io sono qua. Buonasera, ciao Luca, beh, come stai? Ciao Tiro, fase di ripresa. Ti mando un messaggio, non mi hai neanche cagato, ho detto vabbè, sarà in balia del dolore. Va bene, no, l'importante è che sia andato tutto bene. E quando ti vuoi collegare? Su WhatsApp? No, vabbè, su Facebook. E Tiro, cazzo, ho ricevuto 50.000 messaggi. Ma 50.000, però sai che ti rispondo sempre, ci mancherebbe. La prossima volta vado proprio su cosa? Ma su WhatsApp, così è più visibile. Ho ricevuto un sacco di messaggi, forse male tu mi è sfuggito. Mi prendo l'antidolorifico, quindi sta già iniziando a farmi male. Va bene, non ti preoccupare, vai, riprenditi. Scusate se sono entrato così. Che c'è? Natalino, ciao a tutti. Ciao T, buonasera, ben sentito. Ciao Tino. Ce l'avevo in ascolto, poi niente, ero al PC, ho alzato il volume, ho sentito a Luca e ne ho approfittato a salutarlo. Via. Comunque da lì, c'ho le foto. Allora, Vittorio Emanuele III era il bassetto, quello col baffo. Principe Umberto era quello alto, quello più giovane. La sto confondendo io. Questo è tutto, ci fermiamo. Perché so che quello basso lo chiamavano Ciaboletta. Ed era un re. Capito? Magari si chiamava Vittorio Emanuele III, lo sto confondendo io. Perché Vittorio Emanuele era l'uomo di Emanuele Biliberto, chi so vive, quello che era in esilio. Te ne dico di più anche, praticamente nonno, diciamo, l'uomo era sardo ma non era nemmeno un nanetto, no? Aveva questo un piccolino, no? ti veniva quasi da ridere, no? Certe volte ti veniva un po' il ghigno, però guai a farti vedere, farti accorgere che stavi ridendo dal re, ti fucilavano. Minimo. E poi ti buttavano a mare. E poi ogni tanto salivano su quel motoscafo reale quei boioni dei tedeschi, SS, coso, gente anche dell'aeronautica. Poi vabbè, c'erano anche, bazzicavano quelli col fez, i fascistelli soliti, no, col quel cappello, col, con quel pompon lì, già capito? Sì, col fez. Invece c'era il fratello di mamma, era sergente marconista di terra, di mare e di aria, dell'aeronautica, era isso. Ma in cucina, caspita, marconista a quei tempi ti divertivi, è sempre roba inerente alle radio. Il sergente marconista era. Livro antichino, l'uvredito di mamma. Chi c'era collega di Giulio? Falegname, faceva mobili quello, da Petretto, dal padre di Marco. Lavorava. Immagina. Immagina come quanto si è divertito il marconista del Titanic invece, ciu, mamma mia, a quei tempi, in quella situazione, per carità. Tino, riprendi. Luca, riprendi. Sì, sono stato a rispondere a dei messaggi e poi riprendo. Cacchio, non riesco a ricordare, Natalì, dove ho messo quelle foto? Siccome sono un po' importanti lì, che io le ho acquisite allo scanner, però già non mi ricordo dov'è l'acquisizione allo scanner, in qualche hard disk dovrebbe essere, però ogni volta devi cercare, porca miseria. E frutti te ne mangi. Poi avevo trovato roba di nonno, c'era una marea di foto dell'epoca, di gente conosciuta, medaglie, due, una è sparita, già lo so io dove è finita. Francobolli del Vaticano, monete del Vaticano, tutta roba rarissima che vorrebbe una fortuna, tutta scomparsa e risumo tramutata in vino da qualcuno, capisci a me? Sì, hai già capito. Sì, tutta roba sparita, un peccato, magari sarebbe valsa, l'avrei tenuta bene, magari è venuta, no, non me ne frega, però tenuta bene. E credo che si sia salvata solo una medaglia, più che medaglia è una croce di ferro col nastrino di nonno, capito? Figurati. Ho una talisse perché mamma era nata a Castrovillari, perché niente, loro prima stavano tipo a Taranto. Aspetta un attimo il messaggio. Marco, ancora ci sei? Mi è venuto un super abbiocco mentre guardavo i messaggi. Mi ero assopito forte, Natalì. Come ho sentito la voce tua, mi si è aperto l'occhietto. Mamma mia, sempre a quest'ora, E adesso io mi curico lo stesso, no? Qua c'ho la schiena a pezzi, me ne ha tolto il busto adesso. E sono con grimbelli. Mi devo curicare per forza perché sono messo male, dai. Ci sentiamo alle prossime, Marco, dai. Ciao Luca, se sei in ascolto. E tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao a tutti, prendetti per me. Ciao Natalì, ciao, ci sentiamo. Adesso anch'io io mi accendo il teleschermo. Ciao. Beh, non esce la portante. Fanculo.